fare tutta la... Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E buonasera ragazzi, noi siamo in diretta con Restoradio Convento e sono in compagnia di due bellissimi uomini. Come ciao, li chiamate? Grazie, io sono Andrea. Io Alessandro. Il meno bello sicuramente. Meno bello? Sì. Allora siamo in compagnia allora con il più bello Andrea. Il più bello Andrea. E il più figo Alessandro. E il meno bello Alessandro. L'ha detto prima lui, mi dispiace. Ti sei prenotato tardi. Vabbè. Io sono quello più affascinante però, che è molto meglio che non il bello. Cattura di più l'attenzione. Brava. Più bella di tutti e due la conduttrice alla Valentina, ragazzi. Ciao Valentina. Ciao. Piercing. Grazie ragazzi. Bella Mora. Bellissima. È napoletana. Fantastica. Made in Sud. Made in Sud, ragazzi. Qua teniamo il sangue puro napoletano. Napoletane siciliane, quindi. Allora, cosa state festeggiando? Un addio celibato di un nostro carissimo amico, Diego. Ok, voi siete amici, testimoni dello sposo? No, siamo solo amici. Solo amici? Testimoni, no. No, imbucati? Imbucati. Niente imbucati, ragazzi? No. Io sto cercando qualche imbucato, niente. Stasera sono tutti invitati. Perfetto, meglio così, cosa a me non... Da me si usa che ci sta qua sempre qualche imbucato, qualche persona estranea. Ah. No, perché Napoli. Napoli, ragazzi. Ci stanno, ci buchiamo in alto. Era lui che quando è entrato ha detto ci sto mare fuori. Va bene, ragazzi, da dove venite? Milano, sì. Milano centro? No. Zona provincia. Sud-est. Vabbè, non sono della zona di Milano, quindi non lo so. Della Milano bene. Milano bene. Dai. Scatta la Milano bene stasera. Va bene, ragazzi. Siamo simpatici però, dai. Sì, mi state facendo divertire. Lui è bello, mi sono affascinante, quindi siamo... Lui è bello. Allora, tu sei bello e lui è divertente e affascinante. Quindi sono meglio. Mi dispiace, ma ho preso qualche punteggio. Check, me lo dicono tutti. Check. Secondo me. Non ho i capelli, ma c'ho il fascino. È giusto. E mi spiegate una cosa, ragazzi? Dici. Qui fuori, in questa più o meno gabbia di matti, che noi sì, la chiamiamo così. Sì. Cosa avete trovato di strano che vi ha colpito? Una gabbia di matti. Noi siamo una gabbia di matti. Se non ci sono i matti, a noi non piacciono. Ma è meglio così, perché i matti vuol dire che sono folcloristici, colorati, divertenti. E ci fanno divertire. E ci danno divertire, ci danno voce. Guarda come ballano, guarda, dai. Guarda. E questo è il nostro carissimo amico. No, chiaramente chi è dall'altra parte non può vederlo, ma noi lo vediamo. È un nostro carissimo amico. Sì. Vi vogliamo un carisma, un bene smisurato. Allora, facciamo una cosa: facciamoci dei gesti, poiché lui non capisce. Pensiamo che sta parlando male di lui, ma facciamoci dei gesti, dai. E che lo amiamo, capito? Sì. Lo amiamo. Questo non lo conosco. Questo... Lui è l'imbucato. Abbiamo trovato l'imbucato della serata. No, invece questo. No. Stiamo un po' esagerando, caro amico. No, io non ti capisco. No, understand. No, speak English. No. Un'altra cosa, ragazzi, un'altra curiosità che mi viene da dirvi. Dici. Siete sposati? Io non credo, affascinante. Alessandro è un ragazzo di buoni principi, è veramente un uomo di casa. Saldo, casa, famiglia, lava i piatti, stira. Tra l'altro ho sentito ultimamente questa cattivissima cosa sul fatto che l'uomo che sistema casa non è affascinante. Ma assolutamente no. Io lo trovo più affascinante, la verità, perché ahimè, sistemo casa, mi piace sistemare casa, aiuto casa. Ma guarda, moglie, che è una cosa famiglia. Che fa benissimo, perché certo, al finale dai una mano alla donna. Infatti, secondo me è scivolata su una buccia di banana, la famosa, come si chiama, attrice. Non mi ricordo come si chiama, la famosa attrice, dicendo questa beep. Sul fatto che l'uomo non è affascinante, dai, se si sistema casa. Affascinante per forza, in realtà no. A tutti i costi, però. Io sistemo casa, magari non sono affascinante, ma sono utile. Si vuole creare dei punteggi in certo, più. Certo, mio caro amico. Affascinante. Certo. Tu invece pulisci casa? Io invece pulisco casa, ma lo faccio nel silenzio e. Resta umile. Resto umile. E comunque sì, non credo nel matrimonio. Bene. Quindi... Ed è una serata, quindi, diciamo, di una dia celibata. Ci vogliono i beep, però, i beep, cari amici. Beep. tanti tanti bip. Io invece no, ho due cari bambini, sono qua per divertirmi, ma credi maniera... al matrimonio, Alessandro, affascinante. Io credo molto al matrimonio. È una cosa molto importante. Sì, certo che sì. Dobbiamo dirlo. Se non mi sarei sposato, non amerei follemente mia moglie. Ed è giusto. Da quanto tempo sei sposato, Alessandro? Affascinante. Quest'anno sono 11 anni. Ma un bel po', diciamo, un bel po'. Mia cara amica, sì, molto. Mio caro amico, ti scrivo. Allora, siete andati a cantare? No, perché non ho più voce, ma comunque dalla radio c'ho una voce fighissima. Fighissima, anch'io mi sento proprio figa. Mamma mia. Ma proprio solo della voce, anche se la mia voce non mi piace, ma qui dentro è proprio io, una io voce si chiudo gli occhi, sento la tua voce di una sensualità pazzesca. Comunque anche in me ci sono veramente del mio fascino qua dietro. Quindi attenzione. Sono affasciate del mio fascino qua dietro. Anche si, si sta proprio autocomplimentando da solo. Sì. Ci danno. Che siamo, dicono che siamo bravi, che siamo bravissimi. Sì, siamo proprio i numeri uno. Cazzarola, scusate la parolaccia, non pensavo di essere così bravo. Mamma mia, che voce, però. Va bene, dai, ragazzi, è stato un piacere. E il piacere è tutto nostro. È un saluto da casa. Un saluto al nostro amico Diego che si sposa. Si sposa. Ciao, Diego. Auguri, Diego. Auguri, Diego. Che sta ballando. Auguri, Diego. Eccolo qua, il nostro amico Diego. Ah, è lui, non è lui. Ciao, Diego. Diego. Gira. Ma io lo vedo un po' triste. Diego, girati. Ciao Diego. Ti vogliamo bene, Diego. Ciao. Se tu potessi sentire questa voce soave, sapresti quanto sono figo. Ma guarda che hai la voce della radio, però potresti pensarci. Secondo me è un'idea del genere. Fai un duetto. Guarda, no, mi stavo io. Ma domani mi voglio sentire. Fammi sentire più o meno. Dici. Anche una canzone, qualcosa tipo. Non so se senti mai Studio Più, quei due la mattina. No, ragazzi, è promosso, ragazzi. Hai sbagliato tutto nella vita. Shalala. E con questa vi saluto, care amiche. Ciao. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Sei fantastica, simpaticissima. Ciao. Grazie anche voi. Ciao.